Allora, eccoci in diretta, ormai quasi le 13, però insomma abbiamo al telefono Bruno Bellomonte. Ciao Bruno. Ciao, buongiorno. Tutti, ciao, nostra, ciao a tutti compagni. Allora, sì, noi volevamo salutarti e chiaramente unirci ai festeggiamenti che sappiamo si sono avuti l'altro giorno, soprattutto da parte dei tuoi colleghi, insomma, per questo annuncio e il fatto che probabilmente ti reintegreranno, insomma, anche dentro il posto di lavoro, e questa, insomma, è sicuramente una bella notizia, no? Certo, certo. E senti Bruno, ti sei ritrovato ad affrontare tutta questa vicenda casino. E tutto questo casino, una ingiustizia tremenda, e più volte insomma è stato detto quanto hai dovuto sopportare galera, il licenziamento e poi alla fine questo mancato reintegro. Insomma, il piano di Moretti per disfarsi dei ferrovieri fastidiosi continua. Sì, va avanti. Sì, certo, come l'hai affrontato anche questo ulteriore problema? Guarda, intanto io so di essere stato riassunto da venerdì, ma fino adesso le ferrovie ancora non mi hanno chiamato. Prevedo che questo avvenga la prossima settimana, ma al di là di questo c'è stato la cosa più triste e aberrante, è stato il tentativo di sbattermi fuori. Sapete benissimo che loro, oltre a sospendermi inizialmente per 10 mesi, subito dopo mi hanno licenziato, cosa tra l'altro non riconosciuta neanche dal punto di vista costituzionale. Quello che è aberrante è che invece poi a Roma, durante l'udienza davanti al giudice, è stata riconosciuta da parte sia delle ferrovie che anche, a quanto pare, da alcune sentenze della Corte di Cassazione, che purtroppo i datori di lavoro, le aziende possono anche licenziare, mentre un cittadino comune, un lavoratore comune si trova o in carcere o chissà dove. Purtroppo questo avviene. Nel caso mio abbiamo avuto forse la fortuna, anche visto i tempi che corrono, l'articolo 18 che sta per essere quasi abolito del tutto, io ho avuto la fortuna di avere questa sentenza che mi ha dato ragione. Dico per fortuna perché credo di aver avuto anche un buon avvocato, in caso contrario probabilmente sarei ancora licenziato. Mi è andata, credo, abbastanza bene. E abbiamo vinto come ha vinto Dante De Angelis e come credo che vinca anche Riccardo Antonini, me lo auguro, per Viareggio. Spero anzi finalmente che quella storia di Antonini su Viareggio sia una vittoria completa, non soltanto del lavoratore del ferroviere Antonini, di Riccardo, ma anche quella che sia una vittoria contro Moretti, che come abbiamo visto non solo sta distruggendo le ferrovie, sta distruggendo il mondo del lavoro in ferrovia. Ultima è quella degli 800 licenziati, dei nostri ferrovieri licenziati per i treni notturni, una cosa indegna, vergognosa. Ma sì, questa è l'Italia, questo è il mondo del lavoro, questo è il mercato, c'è niente da fare. Comanda il capitale. Sì, comanda il capitale. Poi insomma, ultimamente davvero quasi quasi non facciamo altro che parlare di Moretti, perché vuoi per l'alta velocità, vuoi per i licenziamenti degli operai ex Wagon Leeds, vuoi per i licenziamenti politici ad personam, insomma si sta dando proprio da fare. Si ritorna ai padri padrone, i padroni del vapore, Marchion, Moretti, questi sono chiaramente espressione del capitale, del più becero capitale, che però chiaramente devono andare avanti perché questa è la situazione. Volete un mercato globale? Mangiatevi, occorre tenersi queste personaggi. Purtroppo nessun altro è capace di porre dei limiti. Non abbiamo più un sindacato, non esiste un sindacato. È inutile che la CGIL adesso si ammanta di quale vittoria. Siamo in una situazione in cui se prima resistevamo, adesso rischiamo di soccombere. Finché il mondo del lavoro, i lavoratori in genere, il movimento operario non saprà riacquistare da solo le proprie capacità, che sono quelle di lotta, di resistenza, ma di lotta soprattutto. Io credo che questo purtroppo continuerà per ancora altri tanti anni ancora. Credo che quest'anno come il prossimo sarà sempre un'annata molto difficile per il mondo del lavoro. Auguriamoci che almeno da dentro le fabbriche, nel mondo, in tutti i luoghi di lavoro ci sia una presa di coscienza più radicale. Di questo non possiamo neanche più sperare. Eh sì, eh sì. Dimmi. Eh no, no, cioè hai ragione, anche perché proprio come tu ricordavi, insomma, queste sono ore fatidiche per così ma stamattina abbiamo detto un'altra trincea che è questa dell'articolo 18. L'articolo 18 hanno già deciso, stai tranquillo. Purtroppo sarà un'altra sconfitta. Vedremo come risponderanno in fabbrica i lavoratori. Mi auguro che rispondano in maniera adeguata. Qua si tratterebbe di scendere interamente tutta l'Italia, la Sardegna per prima, scendere in piazza. In Sardegna oramai stiamo morendo di fame, non so se sapete. Però infatti volevo chiederti proprio questo come ultimo aspetto, perché insomma tu poi vivi in un contesto insomma in cui certo non si fanno mancare le proteste, a patto poi che se ne senta davvero parlare a livello nazionale, perché sulla Sardegna c'è una sorta di cappa che sembra quasi voler oscurare insomma in modo sistematico ciò che avviene, soprattutto sul piano delle lotte e delle mobilitazioni. Certo. Qui siamo arrivati in Sardegna, siamo alla fame più completa, solo e soltanto promesse da anni, da oramai. Noi, come tra l'altro come tu sai, io sono un indipendentista, lo stiamo dicendo, gridando da almeno una quindicina d'anni, ma purtroppo adesso quando cominciano le crisi economiche, che sì, le chiamo finanziarie, ma sono di ordine economico, nel senso che il capitale sa benissimo che è tutto dovuto alla sovrapproduzione. Quando arrivano le crisi di questo tipo, se tu stavi male 10 anni fa, oggi sei alla fame più totale. Il rischio è che questo malumore, questa situazione non venga organizzata, non venga dirottata in maniera intelligente contro quelli che sono appunto i nostri nemici, i nemici di classe. Cioè, se la classe operaia in Sardegna non riuscirà a trovare un minimo comune denominatore che non è quello istituzionale, tantomeno quello del sindacato, io credo che purtroppo rischiamo di prendere ulteriori sconfitte. Mi auguro che questo non avvenga, almeno credo che avremo altri 5-6 anni, anche 10 anni di crisi più totale, perché per ricominciare a vivere in Sardegna ci vorranno non meno di altri 15-20 anni, cioè la prossima futura generazione subirà soltanto sconfitte, e quindi siamo in una situazione molto molto cupa, e tra l'altro abbiamo intere campagne abbandonate grazie al fatto che molte aziende sono costrette a chiudere, perché questa Equitalia non fa altro che mangiare sangue, proprio succhiare sangue ai contadini, ai pastori, al mondo proprio agropastorale. Insomma, è una situazione terribile qua in Sardegna. Avremo modo di parlarne comunque, dai. Va bene. Senti, l'ultima cosa, sconfitte da ingoiare, certo, però almeno la solidarietà insomma nei tuoi confronti però non è mancata, c'è chi non si è mai arreso, no. Insomma, no, per fortuna sia in Sardegna che fuori ho avuto sempre grande solidarietà, molta partecipazione, su questo mi fa anche piacere, sono anche contento che finalmente io abbia vinto anche questa causa, ma non per me, proprio perché dimentichi un precedente nel mondo del lavoro, sono convinto, sono sicuro che sarà utilizzata da altri lavoratori. Di questo sono particolarmente contento, e poi finalmente un pochettino sono riuscito insomma a riprendermi quello che mi aspettava, un diritto sacrosanto di lavorare, di ritornare nel mio posto di lavoro e quindi continuare le battaglie. Come tu sai, io ero anche un sindacalista, quindi come tale loro avevano cercato di ottenere due piccioni con una fava. Prima in carcere, poi licenziato, erano contentissimi che si delle ferrovie. Moretti era super contento, anzi sicuramente lui saltava di gioia. E gli è andata male, sono contento per questo almeno. Speriamo che continui a andargli male su tutto il resto, sì, anche se è difficile, ma insomma. Sono contento, te l'ho detto, per De Angelis, sono contento per Riccardo, che anche Riccardo c'ha un grosso seguito di solidarietà di tutto il mondo del lavoro, non soltanto dei ferrovieri. E poi ci sono tanti altri ferrovieri che ho saputo sono stati licenziati o comunque sospesi sempre per la condotta di questo signor Moretti. È diventato oramai il padrone del vapore, diciamo, questo Moretti. Va all'antica, cioè il padrone del vapore di una volta. Eh sì, poi dicono che siamo padrone. Noi che vogliamo, che non siamo, sì. Che siamo arretrati, non siamo moderni. Certo. Senti, va bene Bruno, ciao. Grazie mille per questo intervento. Niente. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you.